gioia del mercato, ordinato ed educato, fatte di celofanato. Non hai alcuna particolarità. Sei quasi sempre il centro delle mode del momento. Non conosci i tuoi difetti, su di te mai non rifletti. Conosci una sola verità. Ti credi originale, trasgredisci il rituale, ma fuori dai tuoi schemi vivi male, piange e tremi. Non mostri mai la tua diversità. Pensare, dubitare, interpretare, tu sei solo eseguire quello che ordina il potere.